ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare, non lo non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Questa voce canta il mio cuore, amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirà. I prati sono in fiore. Questa voce mi canta il mio cuore, amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu capirai, ma tu mi capirai.